organizzazione diversa, però se un punto di vista migliore di altre. Comunque si hanno dei riscontri diversi, si parla molto di più con gente, clienti, anche persone che comunque non vanno ad acquistare i vini ai supermercati oppure anche nelle enoteche e trovano delle differenze, e comunque riescono ad avere anche una cultura loro personale sulla produzione e anche sulle varie lavorazioni che vengono fatte, ecco. Non saprei più cosa dire. Qualche domanda magari riesco a rispondere.